Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino ad oggi ho venduto 88 oggetti, ho tirato su più di 4.000 euro e ho realizzato un desiderio. Manca un mese e mezzo alla fine e ho ancora un sacco di roba da vendere, quindi olè, vendo tutto! La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato anche a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un aerosol. 800240024 349-238-6666. Così, perché ogni tanto è giusto partire dando tutti i dati precisi. Buongiorno a tutti, sono le 16.09 di un bel giovedì 20 maggio 2010. Questa è Vendo Tutto, la radio invece si chiama Radio 24, io Matteo Caccia. Buon, a posto, ci sentiamo domani. Chiuso, tutto quello che dovevo dire più o meno l'ho detto. Oggi vendo un aerosol. Prima però di parlare dell'aerosol e di tutte le scuse che si usano quando non si vuole fare qualcosa, e la prima è sempre: guarda, non mi sento tanto bene. E non che avessi comprato questo aerosol per quel motivo lì, però poi parliamo delle scuse. Io volevo ringraziare innanzitutto Manuela, mi pare, o Michela. Michela, siamo sicuri? Michela, Laura, perfetto. Michela, che è stata la primissima partecipante al concorso Vendo Anch'io. Ve lo ricordo, se avete voglia di partecipare al concorso, scrivete un racconto, ci mandate una vostra biografia, pigliate un oggetto di cui volete liberarvi e lo spedite tutto a vendotutto@radio24.it e il 19 di giugno potreste essere tra i 5 fortunati sul palco di Riva del Garda a partecipare alla serata finale. Ci sono tutti i dettagli, credo, già anche sul sito. Laura, ancora un attimo e sul sito lo trovate. Però ieri Laura Faggini è stata qua fino a mezzanotte e mezza, mi pare, forse l'una, a spedire su Facebook tutti gli inviti all'evento di Riva del Garda 19 giugno, quindi se avete ricevuto l'invito è grazie a quella donnina là. Per cui per Riva del Garda trovate tutto sul profilo di Facebook oppure sul sito. Ma andiamo avanti, perché oggi c'è un aerosol da vendere. È un oggetto meraviglioso l'aerosol, è quello che vi libera quando siete tutti intasati, state male e anche con questi malessere di stagione, giusto? Perché è appena arrivata da poco la primavera, ma non è il caso di parlarne, è a essere benessere che si parlano di queste cose. Qui si parla d'altro, qui si parla di aerosol e visto che appunto, spesso e volentieri, si dice che si sta male quando non è vero, la si usa come scusa, oggi vorrei fare questa, vorrei che voi vi metteste come al solito un cuore, una mano sul cuore e una sul cellulare, mi chiamate e ammettete, sì ok, oggi ieri ho usato una scusa orribile per liberarmi da un impegno, per dire di no a mio marito, per liberarmi la serata che altrimenti non avevo voglia di andare in quel posto, oppure per non uscire con gli amici. Avete presente, no, le miriade di scuse che si dicono, che non sono la più antica è quella, lo si diceva prima in redazione, la più antica è: guarda, non mi sento tanto bene oggi, mi sa che non ce la faccio a venire. Che è proprio, risale ai tempi della scuola, è lì che si impara tutto, no? Motivi di salute. È la più usata. In realtà è talmente usata quella scusa lì che quasi va bene. Cioè, non hai voglia di venire? Ho capito. Mi dici che stai male. Perfetto. È un po' come dire: non mi va di venire con te questa sera. A posto. Ma quando si tirano fuori delle robe tipo: devo portare fuori il cane, guarda, vorrei tanto venire ma sono via per lavoro, oppure non ho la macchina, guarda, stasera non ho la macchina perché fare il tagliando, oppure cellulare grande protagonista, guarda, sai che non ho ricevuto il tuo messaggio, oppure ops, guarda, l'ho ricevuto adesso il tuo messaggio, oppure non c'è campo. C'è una lista, adesso non mi ricordo più dove l'ho vista, una lista delle scuse più utilizzate, delle 10 scuse più utilizzate in assoluto, e al secondo posto c'è non c'è campo, al terzo posto c'è non ho batteria nel cellulare. 800240024 oppure 349-238-6666 per fare una cosa molto semplice, per chiamare e ammettere davanti a tutta l'Italia: sì, ho appena usato questa scusa, avevo le mie buone ragioni e mi raccontate la scusa. Facciamo proprio una mappatura delle scuse che sono state utilizzate oggi, giovedì 20 maggio 2010. Robe tipo: guarda, mi spiace, non ho letto la mail. Avessi letto la mail, sarei riuscita a venire all'aperitivo di questa sera. Oppure ho rotto il PC. Oppure, beh, anche famosa: guarda, mi sa che Gmail ha dei problemi ultimamente, perché non mi arrivano delle mail, deve essere un problema di Gmail o di libero.it. 800240024 per ammettere la scusa che avete utilizzato 5 minuti fa, 5 ore fa o ieri sera. Oppure 349-238-6666. L'aerosol, quando l'ho comprato, non era una scusa, stavo male davvero. Per vederlo, radio24.it, per sentire la storia, pronti via. L'aerosol. Aerosol marca Medel, modello Micron. Sistema ultracompatto per aerosol terapia ad aria compressa, ideale per l'utilizzo domiciliare. Comprensivo di sede del compressore, cavo alimentazione uscita aria, porta filtro, supporto per nebulizzatore e maniglia di trasporto. Manca la mascherina per la respirazione. Perfetto per chi abbia problemi di congestione delle vie respiratorie o voglia fare un po' la parte del malato. Valore commerciale 35 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. In fondo, essere malati non è proprio così male, no? Ah, fermi, non sto facendo l'apologia della malattia. Sto dicendo che ogni tanto avere una cosa tipo un'influenzina, un raffreddore, che so, un dito ingessato, cioè non è proprio così male. Cioè le persone ti trattano con più attenzione, con un po' più di tatto. Addirittura ti chiedono come stai e aspettano la risposta, invece che pensare ad altro un secondo dopo che ti hanno fatto la domanda, come succede di solito. Non essere in piena forma è un'ottima scusa per prendersi del tempo per sé, per poter dire: guarda, stasera non riesco a venire perché non mi sento bene. Cioè, è una giustificazione talmente condivisa che anche se è finta, nessuno può dire niente, perché tutti almeno una volta nella vita hanno detto che stavano male, anche se non era vero. Per liberarsi da un impegno, per non andare in un luogo. Fin dalla scuola. Sì, fin dalla scuola, proprio perché era la scusa più banale, era la più accettata. Mi ricordo ancora quando Alain Baldin, mio compagno delle medie, il giorno della consegna del compito di educazione tecnica, si presentò alla professoressa con un piano di compensato, solo il piano di compensato, invece che con tutto il plastico che avremmo dovuto costruire. E disse che era quello che rimaneva dopo che il cane se l'era mangiato. Io ammirai la sua fantasia all'epoca, lo ammetto. Però la professoressa gli disse che se avesse detto che era stato malato, avrebbe fatto una figura migliore. Ecco, per questo mi piaceva sempre la formula «motivi di salute», che mia madre usava nel riquadro «causa dell'assenza» sul libretto delle giustificazioni. Insomma, alla fine essere un po' malati nutre quella parte di vittimismo che si nasconde in ognuno di noi. Ci fa sentire un po' più considerati, commiserati. È un briciolo di commiserazione rassicurante, no? Per alcuni è quasi affascinante. Anni fa avevo un coinquilino. Era un ragazzo che usava il metodo della fasciatura per conoscere le ragazze. Cioè, lui sosteneva che una fasciatura leggera su un polso, su una mano o un cerotto sulla fronte avessero una loro sensualità e soprattutto fossero un ottimo modo per attaccare discorso. E non aveva a che fare con lo spirito della Croce Rossina, eh? No, era solo un argomento di discussione. Un modo come un altro per raccontare una storia. Un po' come avete presente quella scena di Arma Letale 3, quella in cui Mel Gibson e l'attrice protagonista si corteggiano mostrando le rispettive cicatrici e giocano a chi si è fatto più male. Ecco, quando ho comprato questo aerosol non volevo fare colpo su nessuno, nemmeno sulla farmacista che me l'ha venduto. È che stavo male e volevo trovare un modo per stare bene. Helena's hollow, she lives in the sails. Drift on a promise of delicate details. Her kiss is shipwrecked, touch till she breathes. Love's whisper passing and laying down wreaths. Carolina shy girl made only of air. Breath is he singing on a wing and a prayer. Secrets and shadow lie in the deep. Carried along and laid down to sleep. These winds and cold dark rain blows, breaks and flings. These winds and cold dark rain blows, breaks and flings. Josephine's beauty she hides with a veil. Speaks reassuring but her voice is frail. Dancing covertly, afraid we might fall. Sweep me away and feel nothing at all. These winds and cold dark rain blows, breaks and flings. These winds and cold dark rain blows, breaks and flings. These winds and cold dark rain blows, breaks and flings. These winds and cold dark rain blows. Quando comprai l'umidificatore, non so se ve lo ricordate, quello che ho venduto 2 settimane fa, ecco, stavo malissimo. Mi ricordo, ero andato a dormire e già non stavo bene, ma poi quando mi ero risvegliato la mattina la sensazione era quella di un tonno fuori dall'acqua. Un tonno che cerca di prendere ossigeno dalle branchie. Inspiravo, ma dalle narici non passava un filo d'aria. Per sopravvivere mi toccava respirare dalla bocca. alla gola mi faceva male solo ad aprire le labbra. Mi alzai per bere un goccio d'acqua, ma il mio sedere pesava una tonnellata e mi risbatté sul letto. Sentivo scariche di brividi lungo la schiena, il mio fiato era rovente. Mi risdraiai sul letto avvolgendomi il piumone intorno al corpo come un bozzolo. Il cuore mi pulsava nelle tempie, mi sembrava di non essere mai stato così male. Però penso che sia normale. Ogni volta che si sta male, si pensa di non esserlo mai stato in quel modo. Io ogni volta penso che forse sto morendo. Quella volta l'umidificatore funzionò. Poi, qualche anno dopo, conobbi Giulia. Un giorno si ammalò lei e le comprai questo aerosol. Quello che vendo oggi. Era un giorno d'inverno e lei non riusciva a respirare, quindi io uscii a comprare questo aggeggio e rientrai in casa. Giulia era a letto con la schiena appoggiata su due cuscini e stava bevendo un tè. Era pallida e spettinata, ma era bellissima. Tra una sorsata e un'altra alzavo lo sguardo e ricordo che i suoi occhi erano così lucidi che sembravano persi. Portai via il tè e le preparai un po' di riso in bianco, ma aveva troppo mal di gola e non riusciva proprio a mandarlo giù. La lasciai tranquilla e portai i piatti in cucina. Cominciai a preparare quest'aggeggio per fare l'aerosol. Mentre lo facevo, pensai che era la prima volta che preparavo qualcosa per qualcuno in quel modo e che mi piaceva il fatto che quasi sentissi il bisogno di farlo, perché fare stare meglio lei faceva stare meglio me. Ecco, penso che prendersi cura di una persona sia un regalo enorme. È come se, lasciando che noi ci occupiamo di lei, quella persona ci facesse un dono, come se ci desse la sua fiducia incondizionata. È bello avere la responsabilità di qualcuno. Ti fa sentire forte. Ti fa sentire che le cose che pensi di non essere in grado di fare, se fosse per questa persona le faresti quasi senza sforzo. Quest'aerosol, a modo suo, mi ha insegnato che anche io, in fondo, so fare qualcosa per qualcuno e non solo per me stesso. E quindi è come se mi avesse insegnato l'ABC del vivere sociale. Eppure, nonostante tutto, questo aerosol è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 35 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se avete raccontato delle scuse freschissime oggi, 80024 0024. Fresche appena usate qui, avendo tutto oggi, 349-238-6666 80024 0024. Oscar mi scrive: ad un cliente che chiedeva continui benefit rispondevo che ne avrei parlato col titolare, la volta successiva mi sono tanto scusato, ma il titolare purtroppo era morto. Il venerdì la ragazza che lavora da noi si è presa la giornata e il sabato per accudire la nonna, salvo poi chiamare lunedì bloccata a Barcellona a causa del vulcano. Ugo da Vicenza, ve ne leggo un altro. Oggi mi ha chiamato il direttore della mia banca per chiedermi come mai avessi saltato la rata del prestito. Gli ho detto di chiamarmi domani, che facevo due conti. Pensa al direttore della banca. Effettivamente, credo che ci stia pensando anche lui. 80024 0024. Sentiamo invece da Monza. Marco, pronto? Ciao. Ciao Marco, come va? Bene, bene. Bravo, senti. È una scusa recentissima la mia, è capitata proprio questa domenica. Cosa hai fatto? Cosa hai detto? Ma avevo una gara qua vicino in provincia di Torino, di cosa? Triathlon. Il triathlon è quello che fai bicicletta, nuoto e corsa, ok. Ma quanti chilometri sono? Ma questa qua a Torino era metà delle mie distanze, sono 1,9 km di nuoto, 90 di bici e 21 piedi. Vabbè, sei un atleta comunque, cioè, anzi, un triatleta. E però non volevi andarci. Come, scusa? Non volevi andarci però. No, non ci sono andato, cioè ho inventato la scusa questa domenica. E la scusa era? È la comunione di una cuginetta, perché ero devastato, non ero in forma, avevo paura di prendere bastonate dagli amici, allora ma era domenica di comunioni queste, Marco? Lo so, infatti per quello l'ho inventata abbastanza bene e mi hanno creduto. Ah, ok, quindi ma alla fine ci sei andato? No, non ho fatto gara, non sono andato alla comunione, quindi diciamo con un colpo di fortuna. Prossima gara, sapete, Marco, quand'è? La prossima gara al mese di luglio in Germania. Lì niente cresime, confessioni, comunioni, niente. Perché lì è la gara dell'anno, cioè lì è distanza Ironman. Quindi... Vediamo di prepararci allora, Marco. Sì, ci sto provando. Buona giornata. Grazie, ciao. Alla prossima. Andiamo a Roma da Giuseppe, pronto? Ciao Giuseppe, ciao, come stai? Bene, tutto bene. Sì, due cose veloci. Prima, leva meno curiosità, 10 secondi. Tanti anni fa, 15 anni fa, io seguivo un programma su Italia 1, un certo Jack Foll, ambientato a Cuba, bellissima trasmissione, una voce come la tua. Te la ricordi? Io sì, me la ricordo, ma se la domanda è sei tu, la risposta è no, perché 10 anni fa c'avevo poco più di 20 anni. Non eri tu, no. Infatti immaginavo. Mi dispiace, si chiama una voce come la tua. Veniamo si chiama Diego Cugia quello, ma è passato anche da queste parti. Comunque ne parliamo. Ma chi era? Sono rimasto curioso perché è sparita all'improvviso quella trasmissione, che era di una bellezza a mio gusto, veramente unica. Vabbè, se vai su Google o su Google qualcosa lo trovi sicuramente. Grazie dell'indicazione. Figurati. Senti, dimmi cosa hai... Mi succede questo, mi sono lasciato circa una decina di giorni fa, sì, una ragazza molto più giovane di me, non italiana, sì, dopo un paio di giorni mi comincio a telefonare chiedendomi soldi, tipo una specie di buonuscita. Ah. Io prima rimango perplesso, poi dico, ma come, abbiamo diviso insieme questo, quello e quell'altro, eccetera. E tu vuoi soldi. Mica sono il tuo datore di lavoro, no? E quindi che le dici? Allora faccio finta, cioè dico, pronto? Non ti sento, pronto? Ah, ok. Il cellulare, perfetto. Il cellulare. Giuseppe. All'epoca dei cellulari mi sembra il massimo. È il massimo. Giuseppe, scusa, ma non ti sento più, quindi ti devo salutare. Buona giornata. Okay, ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo a Vercelli di Raffaele. Pronto? Ciao, come va? Ma insomma, abbastanza bene. Stavo guidando, quindi adesso possiamo parlare con calma, che sono fermo. Bravo. Dove stai andando e da dove vieni? Sto tornando a casa e sono andato a comprarmi un paio di scarpe. Ah, ma fai il consulente, Raffaele? Assolutamente no, cioè sì, nel senso per mia moglie ogni tanto. Ah, nel senso che le scarpe erano per tua moglie? Sì, esatto, mi ha portato dietro per quello. E già che c'ero ne ho spesi, ho speso 70 ma euro. Lì, ma è lì con te, scusami, tua moglie? Assolutamente no, l'ho lasciata in negozio. Ah, hai portato... Oh, ok, perfetto. Mi sembrava strano che una donna mandasse il marito a comprare le scarpe, invece l'hai accompagnata. Perdonami. Appena ho potuto l'ho lasciata okay, lì. Ok, andiamo alla scusa, Raffaele, diretti. E anche tanto tempo fa, a lavoro, mi hanno consegnato uno di quei classici fogli precompilati per la dichiarazione dello stato di famiglia, per ricevere gli assegni familiari, eccetera, che io puntualmente poi, portandolo a casa appunto per compilarlo, ho perso da qualche parte. E quando poi è arrivato il giorno che dovevo restituirlo, sono andato su in ufficio e gli ho detto che era finito all'interno della macchina, che a sua volta era finita dallo sfasciacarrozze, okay, che era trasformata in un cubo di latta contorto. Di latta. Raffaele, grazie mille, vai a riprendere tua moglie al negozio, non lasciarla. Se ho voglia. Ciao, buona giornata, ciao. Grazie. Abbiamo l'ultima telefonata. Elena, che è una bibliotecaria. Elena, ci sei? Sì, ciao. Perfetto. Senti, tu hai un po' di scuse di raccontare di gente che non riporta i libri, giusto? Sì, dimmene tre o quattro. Allora, guarda, abbiamo un sacco di utenti Globetrotter. Cioè? Ero all'estero. Ok. Da 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 10 anni. Poi? Ero malato. Vabbè, classica. Ho fatto un incidente. Sì? Poi morti di animali, parenti, amici, eccetera. Ok. È stato un inverno freddo. E non sono potuto venire, non ho trovato parcheggio. Va bene. Ok. Sono qui che sto parcheggiando, mai più visto. Ah, perché tu li chiami al telefono proprio? Sì, li chiamiamo al telefono, certo, con tanto di minacce, certo, di multe, visite. Elena, se purtroppo non chiudo mi multano quelli del GR. L'ultima, perché sono già... l'ultima la più bella. Vai. Sto facendo sesso. Grazie mille, ciao Elena. Grazie a te, grazie alla Faggin, a Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Domani vendo una bussola. Voi invece, se avete il raffreddore, curatevelo, che vi assicuro che stare bene è meglio che stare male. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo